Al Tour con Ivan Basso. Ancora in diretta dalle strade del Tour de France con il tour di Ivan Basso in esclusiva per Radio 24. Oggi la cronometro di Grenoble ha incoronato Cadel Evans, straordinario, appena 7 secondi dietro Tony Martin, ma abbondantemente avanti a Andy e Frank Schleck. Sarà l'australiano a vincere questo tour. Ivan Basso, ben ritrovato a Radio 24. Buonasera a tutti. Ivan, direi subito di rendere onore a questo grande Cadel Evans, meritato il successo al Tour. Ma sicuramente ha vinto un grande campione, ha vinto un atleta che io personalmente stimo moltissimo, rispetto moltissimo. Siamo amici, siamo stati allenati da entrambi da Aldo Sassi e io credo che oggi è un giorno molto particolare che insomma ricorda il nostro caro Aldo. Sicuramente sarà molto felice per la vittoria di Cadel. Le tue sensazioni in questa crono di oggi? Certo, non era la tappa dove poter recuperare posizioni, un tuo bilancio. Fino a metà tour io ci ho creduto fortemente, dopo sono iniziate delle prove per me così a volte buone, a volte meno buone, e lentamente ho dovuto prendere coscienza che comunque la mia condizione non era quella che così bastava per poter lottare per la vittoria o quantomeno per il podio. Bisogna prenderne atto. Il bello dello sport è che ci si può rifare, ci sarà il prossimo anno il Giro d'Italia, il Tour, la Vuelta, insomma altre grandi corse, e quindi in questo momento facciamo i complimenti a Cadel Evans, ai due Schleck sul podio. Sicuramente non è esattamente quello che io mi aspettavo, però bisogna ripartire, lo sport, il bello dello sport è anche questo. Assolutamente d'accordo, quindi Ivan ti aspettiamo per la rivincita, intanto appuntamento a domani sempre qui su Radio 24, finalmente si arriva a Parigi, dai. Allora una buona serata a tutti e a domani.